Allora, eccoci in diretta. Ci sei al telefono, Marco? Sì. Ciao, buongiorno. Allora, buongiorno. In via Prenestina, come dicevamo, si sta svolgendo una protesta dei lavoratori del settore delle pulizie. Marco, raccontaci quali sono le ragioni che vi hanno spinto oggi a scendere in strada. E mi sembra che sia, oltretutto, insomma, una manifestazione così abbastanza spontanea, insomma, no? Certo, ci sono anche i sindacati, per alcuni sindacati, no? Però c'è questo movimento. Mi sento male perché c'è un po' di confusione. Certo, vai, raccontaci il perché siete scesi in piazza. La protesta nasce, praticamente, noi siamo della Fisaschetto CISL di Roma e protestiamo insieme ai lavoratori delle pulizie che operano sulle metropolitane, in quanto le aziende hanno aperto a luglio una procedura di mobilità convocandoci alla regione per chiedere gli ammortizzatori sociali, che in questo momento gli unici che sono rimasti sono la solidarietà. Su 12 sindacati siamo gli unici che non hanno firmato questa solidarietà, perché secondo noi non ci sono i motivi, anche perché le aziende e la committente ADAC non ci ha messo a disposizione la documentazione necessaria per poter entrare nel merito e vedere se effettivamente c'erano o non c'erano questi esuberi che loro dicevano. Con i numeri alla mano che abbiamo avuto solo in seguito dall'ATAC, abbiamo potuto vedere che non c'era un taglio, non ci poteva essere un taglio delle ore per i lavoratori, e per secondo noi la solidarietà non poteva esistere, insomma. Per questo siamo qui a protestare, anche perché i soldi sono soldi pubblici. Sono soldi pubblici e non credo che si può sperperare così il denaro pubblico. Senti, queste sono le ragioni. Ho capito. Ad oggi siamo l'unica sigla sindacale che si è opposta, e questo ci fa molta rabbia, perché le altre, tutte quante, le altre 11 sigle sindacali hanno firmato questa solidarietà, senza vedere i numeri, senza entrare nel merito, firmando così la solidarietà. I lavoratori qui rischiano di perdere, abbiamo fatto dei conti, anche 5.000 euro l'anno di retribuzione. Siamo qui, siamo davanti all'ADAC, stiamo aspettando che ci convocano e chiediamo all'ADAC e al comune, che abbiamo sollecitato più volte, di intervenire per mettere fine a questa cosa, che è una cosa vergognosa. I soldi della comunità sprecati così, perché... Senti, pronto? Sì, ci sono, ci siamo. Sento malissimo. Senti, Marco, ma quanti sono gli esuberi che l'azienda intenderebbe, insomma, mettere? Gli esuberi che si intendono. Si sente malissimo. Quanti sono il numero degli esuberi richiesti dall'azienda? Allora, 150 esuberi, secondo l'azienda. Ma l'azienda, ma non solo questa, tutte le aziende aprono la procedura di mobilità per portare poi i sindacati in regione con una spada di Damocle sulla testa, dicendo o i licenziamenti o prendete gli ammortizzatori sociali. Questo ormai è un modo che fanno tutte le aziende, molte aziende, non tutte, molte aziende. E questo non va bene, perché noi poi ci troviamo alla regione che ci abbiamo praticamente da una parte i licenziamenti e dall'altra parte gli ammortizzatori sociali. Ma se non è necessario prendere questi ammortizzatori sociali, perché dobbiamo firmare? Sono soldi della comunità. E non credo che sia giusto che vengano sprecati in questa maniera. Beh, assolutamente, ma ancor di più non sarebbe giusto, soprattutto, diciamo così, riorganizzare anche da un punto di vista di orario di lavoro questo tipo di servizio. Ma quello che noi abbiamo chiesto, questo è quello che noi abbiamo chiesto. Quando è arrivata questa procedura, noi abbiamo detto entriamo nel merito, vediamo un attimo la situazione dei lavoratori. Innanzitutto, c'è qualcuno che va in pensione nei prossimi anni? Ok, noi siamo disponibili, li accompagniamo alla pensione. Riorganizziamo il lavoro, ma qui parliamo che questi stanno applicando la solidarietà, è una cosa vergognosa, su persone che hanno un parametro di 15 ore settimanali. Gli dicono di venire a lavorare 9, articolano l'orario di lavoro in un'altra maniera, nel senso che tu facevi un part time verticale, lavoravi 2 giorni, no, te li sparmano 3-4 giorni. Ci sono situazioni di persone che sono sole con i bambini che non è sostenibile, non possono, li hanno spostati da Pietralata a Valle Aurelia. In questo modo tu a una persona, a una donna sola, gli stai dicendo di mettersi. È come se avessi messo in atto i licenziamenti. Assolutamente. Da quanto ci stai facendo capire, praticamente sta diventando una sorta di procedura ordinaria quella di utilizzare gli ammortizzatori sociali semplicemente per ridurre i salari alla fine. Ma lo è stato. Ma la cosa, uno deve un attimo, un conto magari un'azienda che ne so, vende le macchine, ok? In quel caso è facile entrare nel merito, no? Prima ne vendevo 50, poi 30, è giusto, quelle 20 macchine che tu non vendi più, è giusto andare a prendere ammortizzatore sociale per poter colmare quel gap, no? E quelle famiglie possono prendere i soldi. Ma quando si tratta di servizi, pulizie, è difficile, bisogna lavorarci. Noi siamo l'unico sindacato che entra nel merito. Prendiamo il capitolato vecchio, prendiamo quello nuovo, vediamo il costo del lavoro, i parametri. Solo in quel modo possiamo vedere se c'è un esubero e se non c'è un esubero. È un lavoro grande, ma noi lo facciamo. In questo caso abbiamo visto che non c'è proprio questo esubero. Senti, sono Marco, che non, cioè, senti, è una cosa vergognosa. È un una cosa periodo che siamo soli, perché gli altri non ci sono, perché già hanno firmato in regione questa solidarietà, senza leggere ne altre, cose proprio allucinanti. Senti, in questo periodo l'ATAC, insomma, è finita anche nell'occhio del ciclone, poco in realtà rispetto a quanto ci dovrebbe finire, per via anche, diciamo, no, della corruzione che evidentemente ha dilagato in quell'azienda, ma ultimamente anche i lavoratori dell'azienda si stanno mobilitando per cercare, sì, come a Genova, di mantenere la pubblicità di questa, sì, di questa importante, sì, servizio. Credo che domani ci sia proprio una manifestazione. Esattamente. Sì, voi parteciperete domani a questa... Ma noi la stiamo facendo oggi, perché noi diciamo che siamo di categoria, no? Noi seguiamo il terziario, il commercio, le pulizie, lì diciamo che poi è il trasporto che se ne occupa, no? La federazione del trasporto, che c'è la FIT-CISL, comunque lì siamo solidari insieme con loro. Ho capito. Però la manifestazione noi oggi la stiamo facendo proprio per i dipendenti delle pulizie. Ho capito. E queste aziende che cambiano nome ma sono sempre le stesse da 10 anni, no? I dipendenti sono sempre stati gli stessi. La gara è stata assegnata a febbraio, ma a luglio come fai a dire che c'è un esubero di 150 persone? Cioè, è una cosa scandalosa. Senti, come si sta svolgendo il presidio questa mattina? C'è anche una sorta di blocco del traffico? Che facciamo, Ne abbiamo già fatti alcuni. Solo che dopo che era stato firmato il contratto di solidarietà, i lavoratori non avevano ben capito, perché gli era stato detto che perdevano 30 euro al mese dalle altre sigle sindacali. Noi con i conti alla mano abbiamo visto che la perdita è un po' più alta e piano piano ci stanno seguendo sempre di più i lavoratori. Ora siamo qui e stiamo aspettando che l'amministratore delegato ci riceva per fare chiarezza su questi appalti, perché non è possibile. Perché anche l'ATAC che sta in crisi, sì, i soldi che mette per gli appalti delle pulizie li deve controllare. Qua parliamo di 29 milioni d'euro. Ci deve essere un controllo da parte loro. Ma chiaramente, insomma, ci stiamo rendendo conto quanto valgono molto più i conti che si fanno per le loro tasche rispetto a altri conti, sì. No? Se pensiamo che sono arrivati a 13.000 dipendenti, credo, da quello che ho capito all'ATAC, di cui la maggior parte, cioè, molti sono sull'amministrativo, dirigenti, sì, e all'operativo sono poche, per questo che i colleghi, i lavoratori poi dell'ATAC domani protesteranno, proprio per questo motivo, no? Perché c'è sempre l'anello più debole poi che ci rimette. Assolutamente. Va bene. Comunque la situazione sta diventando insostenibile dappertutto. Noi siamo sempre in mezzo alla strada, sempre vicini ai lavoratori, ma sta diventando veramente pesante. È una polveriera, ogni giorno ne scoppia una. Vediamo un po', insomma, di seguirli tutte queste micce che si accendono. E io infatti anche per questo invitavo, magari al di là della sigla sindacale, ben inteso, anche i lavoratori delle pulizie a partecipare magari nella giornata di domani, per cercare di far avanzare questa unità, no, dal basso, di tutte le categorie. Sì. Ma noi siamo qui, sarà presidio, sarà costante, cioè domani saremo ancora qui se non risolviamo il problema, anche dopo domani. Va bene. Che vogliamo fare. Va bene, grazie allora Marco, okay. E magari ci risentiamo per capire un po' come si risolve questa cosa. Grazie mille, grazie, ciao. Grazie tante, grazie. Ciao.